Bene, buonasera, benvenuti qua all'appuntamento col sottoscritto, lunedì 20, salutiamo Giangi e Claudio, i due nostri famosi rocchettari che vi fanno ascoltare questi ottimi brani. Stasera mi ritrovo da solo, anche se ho un buon supporto, Marco, alla console. E Dan Jay non ci ha così raggiunto stasera perché avrà degli impegni e ne approfitto, lo saluto. Comunque, sentitemi bene. Allora, abbiamo preparato una bella lista anni 80 e stasera speriamo così di farvi danzare un po', ricordandovi appunto che gli anni 80 fanno sempre ballare. Bene, partiamo con il primo brano. Noi siamo Radio Live Station, io sono Gianni e Marco la console. Bene, così lasciamo anche Donna Summer, Hot Stuff, e noi qua vediamo di nuovo la solita ennesima cosa. Piove, ragazzi, a Torino piove. Io vi ricordo che la scaletta che ascolterete stasera è stata redatta da sottoscritto, quindi spero di così farvi ballare un po' con gli anni Ottanta. Lei è Gloria. I just walked in to find you here. Bene, sulle note di Gloria Gaynor vi preannuncio, come ho già detto prima, come al solito qua a Torino piove, ma tra l'altro venerdì è arrivato un po' di disastro qua nelle zone fra Settimo Gassino e San Mauro, ha fatto tragedia. Bene, passiamo al prossimo pezzo, ci ascoltiamo questo Mascirona. Speriamo che la musica che vi sto facendo ascoltare stasera sia di ottimo ascolto. Bene, abbiamo lasciato anche My Sharona, noi siamo sempre qua, Radio Live Station, e stasera per farvi ballare con gli anni 80, visto che Dan Jay non c'è, stasera lo programmo io. Quindi speriamo un po' di farvi danzare, li ho scelti personalmente per voi. Saluto la signorina Vilma del Plaza e vi mando un grosso bacione con questo brano. Loro sono Miller People, Vilma. You can go, I said, young man. YNCA. Bene, abbiamo lasciato anche questi Village People con Inca. Allora, andiamo ad ascoltarci queste Blondie con Call Me. Noi siamo sempre qua a Radio Live Session. Vi ricordo che adesso siamo ancora in fase di trasmissioni sperimentali, ma da settembre andremo 24 ore in non-stop. Anche questa Blondie. Io vi ricordo sempre comunque, se volete ascoltarci, sempre www.radiolivestation.com. Bene, Betty Davis, Radio Live Session. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Betty Davis eyes. She'll let Bene, lasciamo anche Davis Eyes. Comunque, noi siamo sempre qua e ci ha così abbandonato il solito acquazzone, quello che ci tiene compagnia tutte le sere. Allora, immaginate un attimino di essere su una bella spiaggia, così i tropici, ascoltare questo pezzo che vi mandiamo in onda sempre qua da Radio Live Session. Let me love and have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to Lasciamo anche Boy George e adesso andiamo a scatenarci un po' con Paris Latino Bandolero. Io vi ricordo che stasera non c'è Dan J, ci sono io a tenervi compagnia con gli anni 80 Bandolero. Vegas et comme Zorro, ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas, l'appeler mec du mois. Miss Cha-Cha-Cha, oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, don't forget me, I'm Dr. B. Vert sur vert de Cuba Libre, Dr. B, that's me. Direct to Mexico, Don Diego de la Vega sa cape son bandeau. Plus personne dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir. Odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha. Oh Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, Miss Cha-Cha-Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, Don't forget me, I'm Dr. B. Fer brisé de Cuba Libre, Don't forget me, I'm Dr. B. Fer brisé de Cuba Libre, Dr. B. So listen closer to the Sure Shot Groove. Won't take my time, but have in mind that we're a brand new band and we're so divine. We don't spend no time rocking. and roll. Cause roll don't rock and rock don't roll. We got some hot that'll hit the spot. Something brand new by the letter rock. We're gonna rock the east, we're gonna rock the west. We're gonna rock the girls and put them to the test. And we'll rock you. But don't forget that we're the main cliche. The definitive best. Get down. So this ain't my destination, Dr. B. Rock the house, yes, yes, I will. Rock the house. Dr. B. Rock the house, yes, yes, I will. Bene, lasciamo così questo bandolero che ci ha fatto così anche scatenare un pochettino. E beh, stasera sì, io penso che qualcuno di voi ballerà sicuramente. Sheila B. Devotion, Spacer. Allora, qui saluto Mary, che poi dice che non la saluto. Ciao Mary, un grosso bacione. E poi salutiamo anche tutta la compagnia così delle Soleil, dove io prendo il sole ogni tanto con loro. Beh, un saluto esteso a tutti da parte mia, e i nomi, ricordarsi i nomi è un dilemma. Vabbè, un saluto esteso a tutti, Mary farai tu da portavoce. Bene, lasciamo anche Sheila B. Devotion per passare al prossimo brano, che è un brano che ha fatto ballare. Vi ricordo che stiamo spaziando gli anni 80 con Gianni stasera e Dan Jay. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie, Radine dumm. Schau, schau, der Kommissar geht um. Alles klar, Herr Kommissar. Hey, wanna buy some stuff, man, huh? Did you ever rap that thing, Jacko? Is there a rap that's to the beat? Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Alles klar, Herr Kommissar. Tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, la la la. Radine dumm. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh. Wenn er dir anspricht und du weißt warum, sag er, dein Leben bricht dich um. La la la la la la. Radine dumm. Oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Bene, lasciamo anche questo falco che vola sui cieli di Torino, da dove vi stiamo trasmettendo noi in questo momento. Bene, io passo al prossimo brano, The River of Babylon, loro sono i Bonnie M. Quanti di voi non si ricorderanno questo brano? Penso proprio in voi. Bene, viaggiamo un attimino su questi anni 80, se sarà un ricordo li ho messi io, andremo avanti un po' di più. E che dire, anche a settembre avanti un po' di più. Diventeremo 24 ore, non sto. Bene, andiamo avanti con la musica. Loro sono i Bonnie M. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Remember Zion. Bene, lasciamo anche le note dei Boney M per passare a un brano che ha fatto ballare parecchi all'epoca. Bene, ma vi state divertendo? Ma sì che state ballando con noi. Fly, Robin Fly. Bene, lasciamo anche le note di Fly, Robin Fly. Bene, volevo ricordarvi un appuntamento qua a Torino. Dopodomani ci sarà la festa di San Giovanni, la festa del patronato di Torino, quindi mi faccio già gli auguri da solo, perché il sottoscritto, come ben sapete, si chiama San Giovanni, anche se così col diminutivo diciamo che già. Bene, signori, io sono un po' spento stasera, un po' come Daniele la serata precedente alla mia, come Dan J, però noi così, anzi io da solo, perché tra un po' mi passerò il microfono da me a me, perché continueremo con l'Italiano Revival, però volevo ancora farvi ascoltare un paio di brani così velocemente. Loro sono gli Imagination, ad esempio, con questo Birdman. Ascoltato anche l'Imagination, però volevo chiudere così con un altro brano per finire con gli anni 80, e stasera ve l'ho scelta proprio io la scaletta, Gianni, che tra un paio di minuti passerà poi all'Italiano Revival. Però volevo chiudere in bellezza con lei, con Roberta Kelly, che ci fa ascoltare questo Zodiac. And scary and Bene, lasciamo così Roberta Kelly che ci diceva e ci chiedeva Zodiac, your Zodiac please. Sorry, not do you speak English?